la la la la la la la la. Puoi fare un po' qualcosa, perché è da un po' che ogni tanto va nel candescente, sì. La la la la la la. Dai, allora, secondo te, te entri qui dentro, fa sta stronzata, mo uno che deve fare? Ciao KV5, uno mo che dovrebbe fare con questo? È un quarto d'ora che vai e vieni con sta stronzata, vabbè, sì, e dagli una bella spinta, dai. Ma il tempo che vieni qui, il tempo che lo trovi, io mi sono sposata, già ho avuto 6 o 7 figli, caro.